so per quanto possa restare. Adesso è tardi, non posso spiegare. SOS, ho voglia di mare. Pantaloncini, maglietta, occhiali da sole. E presto scendi, che ho voglia di te. Voglio restare sotto il sole con te. Voglia di mare, oh yeah. Aio, yeah, ho voglia di te. Perché mi piace stare bene con te. A stare insieme non c'è niente di male. Speriamo solo non si agiti il mare. Un giro in barca, volarci io e te, andare al largo, averti solamente per me. Voglia di mare, oh yeah. Aio, yeah, ho voglia di te. Perché mi piace stare bene con te. Viaggiare con la mente perché stare bene con te, perché mi piace stare bene con te, perché mi piace stare bene con te.